Si alzò allora di colpo dal letto e uscì e fece segno di nascosto alla moglie di suo zio e dopo che lei l'ebbe seguito fuori dal portone sotto il giuggiolo, dove nessuno poteva sentirlo, disse: Ho ascoltato e sentito quello che hai detto nelle corti e hai ragione, ho bisogno di più di quella sola e perché non dovrei, visto che ho abbastanza terra da nutrire noi tutti? Lei rispose svelta e loquace: Ma certo, e perché no? È così che fanno gli uomini benestanti. È solo il povero che deve bere da un'unica coppa. Così parlò, sapendo cosa avrebbe detto Wang Lung a quel punto, e lui continuò come lei aveva previsto: Ma chi contratterà per me? E chi sarà il mediatore? Un uomo non può andare a casa di una donna e dire: Vieni nella mia casa. A ciò lei rispose immediatamente: Lasciala fare nelle mie mani, dimmi solo chi è la donna e ci penso io. Allora Wang Lung rispose, timido e riluttante perché non aveva mai pronunciato ad alta voce il suo nome davanti a nessuno: È la donna chiamata Loto. Gli sembrava che tutti dovessero conoscerla e aver sentito parlare di Loto, dimenticando che appena un paio di lune estive prima non sapeva nemmeno che lei vivesse. Era perciò impaziente quando la moglie di suo zio chiese ancora: E dov'è la sua casa? Ma come dove? Rispose lui con asprezza. Dove se non nella grande casa da tè sulla strada principale della città? Ah, quella che si chiama la casa dei fiori. E quale se no? Ribatté Wang Lung. Lei rifletté un istante, toccandosi il labbro inferiore arricciato, e alla fine disse: Non conosco nessuno là, devo trovare un modo. Chi è la custode di questa donna? E quando le disse che era Cucù, un tempo schiava della grande casa, lei rise e disse: Ah, lei! È questo che ha fatto dopo che l'anziano signore è morto di notte nel suo letto? Beh, era questo che doveva finire a fare. Poi rise ancora con un chiocchiante: E disse pronta: Lei, ma è una cosa semplice, è tutto facile. Lei farebbe qualunque cosa se sentisse nella mano abbastanza argento, potrebbe persino costruire una montagna. E udendo questo, Wang Lung sentì la bocca improvvisamente asciutta e riarsa e la sua voce uscì in un sussurro: Argento allora, argento e oro, tutto, fino al prezzo della mia terra. Poi, per una strana e opposta febbre d'amore, Wang Lung non volle più andare alla grande casa da tè fin quando l'affare non fosse stato concluso e si disse: Se non verrà nella mia casa e non sarà soltanto mia, mi taglierò la gola e non mi avvicinerò più a lei. Ma quando pensava alle parole se non verrà, il suo cuore si bloccava per la paura e correva di continuo dalla moglie dello zio dicendo: La mancanza di soldi non deve chiudere la porta. E ancora, hai detto a Cucù che ho argento e oro a volontà? E poi, dille che non dovrà fare nessun tipo di lavoro nella mia casa, ma indosserà solo abiti di seta e mangerà pinne di squalo ogni giorno se lo vorrà. Finché da ultimo la grassona divenne insofferente e roteando gli occhi lo apostrofò: Adesso basta. Sono una stupida o credi sia la prima volta che faccio da mediatrice fra un uomo e una donna? Lasciami in pace e lo farò. Ho detto tutto già molte volte. Allora per lui all'improvviso non ci fu niente da fare se non mordersi le mani e vedere d'un tratto la casa, come Lotto avrebbe potuto vederla, e incitava Olan a fare questo e quello, a spazzare, a lavare e a spostare tavoli e sedie, tanto che la povera donna fu presa sempre di più dal panico perché, nonostante lui non le dicesse nulla, sapeva cosa l'attendeva. Wang Lung non sopportava più di dormire con Olan e si disse che con due donne in casa dovevano esserci più stanze e un'altra corte e doveva esserci un posto dove poter andare col suo amore e starsene appartato. E mentre aspettava che la moglie dello zio ultimasse l'affare, chiamò i suoi lavoranti e ordinò di aggiungere un'altra corte alla casa, dietro la stanza centrale, e tre stanze attorno alla corte, una grande e due piccole su ciascun lato. E i lavoranti lo guardarono con gli occhi spalancati, ma non osarono rispondere. E lui non disse loro niente, ma li diresse personalmente, tanto che non dovette nemmeno parlare con Ching di quel che stava facendo. E gli uomini scavarono la terra dai campi e fecero i muri e li consolidarono, e Wang Lung li mandò in città a comprare le tegole per il tetto. Poi, quando le stanze furono finite e la terra lisciata e battuta, per farne un pavimento, comprò dei mattoni e gli uomini li posarono e li saldarono con la calce. Ed ecco un bel pavimento di mattoni per le tre stanze di Loto. E Wang Lung comprò stoffa rossa con cui fare tende per le porte e comprò un tavolo nuovo e due sedie intagliate da mettere ai lati e due rotoli dipinti con colline e acqua da appendere sul muro dietro il tavolo. E comprò una scatola per dolci con coperchio, tonda e laccata, e vi mise pasticcini al sesamo e dolcetti farciti e la posò sul tavolo. Poi comprò un letto intagliato, largo e profondo, grande quanto una piccola stanza, e comprò tende e fiorami da appendervi attorno. Ma per tutto ciò si vergognava di chiedere qualsiasi cosa a Olan, e quindi la moglie dello zio veniva di sera a fare le cose che un uomo è troppo maldestro per fare da sé. Poi fu tutto finito e non restava più niente da fare. Erano passati giorni di una luna intera e la faccenda non era ancora risolta. Quindi Wang Lung si gingillava da solo nella nuova piccola corte che aveva costruito per loto e pensò di costruire una piccola vasca al centro della corte e chiamò un lavorante e l'uomo scavò una vasca larga e lunga 3 piedi e la rivestì di piastrelle. E Wang Lung andò in città e comprò 5 pesci rossi. A quel punto non gli venne più in mente altro da fare e di nuovo attese impaziente e febbrile. Durante tutto quel tempo non disse niente a nessuno, ma rimproverava soltanto i figli se avevano il moccio al naso o gridava a Olan se non si era pettinata per 3 giorni o più i capelli, tanto che un mattino Olan scoppiò in lacrime e pianse a dirotto come non l'aveva mai vista fare in passato, nemmeno quando morivano di fame o in qualsiasi altro momento. Disse perciò aspramente: «Allora, donna, non posso dire di pettinarti quella criniera di capelli senza che tu faccia tante storie?» Ma lei non rispose nulla e continuò soltanto a ripetere piangendo: «Ti ho partorito dei figli, ti ho partorito dei figli!» Lui si azzittì a disagio e borbottò qualcosa fra sé perché si vergognava davanti a lei e la lasciò sola. Era vero che davanti alla legge non aveva nessun motivo di lamentarsi della moglie, perché gli aveva partorito 3 buoni figli maschi ed erano vivi, e quindi non aveva scusanti se non il proprio desiderio. Andò così, finché un giorno la moglie dello zio venne e disse: «L'affare è concluso. La donna che fa da custode per il padrone della casa da te accetterà 100 pezzi d'argento in mano, tutti in una volta, e la ragazza verrà per degli orecchini di giada, e un anello di giada, e un anello d'oro, e 2 completi di raso, e 2 completi di seta, e una dozzina di paia di scarpe, e 2 coperte di seta per il suo letto.» Di tutto ciò Wang Lung sentì solo l'affare concluso, ed esclamò: «Che si faccia? Che si faccia?» E corse nella stanza interna e tirò fuori l'argento e lo versò nelle mani della donna, ma di nascosto perché non voleva che qualcuno vedesse i buoni raccolti di tanti anni andarsene così. E alla moglie dello zio disse: «Prendi per te 10 buoni pezzi d'argento». Lei fece finta di rifiutare, rizzando il corpo grasso e voltando di qua e di là la testa ed esclamando in un sonoro sussurro: «No, non voglio. Siamo una famiglia e tu sei mio figlio, io sono tua madre e lo faccio per te, non per l'argento.» Ma Wang Lung vide la mano tesa mentre negava e vi versò il buon argento e pensò che era ben speso. Poi comprò maiale e manzo e pesce mandarino e germogli di bambù e castagne e comprò dei nidi di rondine secchi del sud da bollire per farne una minestra e comprò pinne secche di squalo e ogni prelibatezza che conosceva e poi attese, sempre che quell'agitazione bruciante e tormentosa in lui si potesse chiamare attesa. In una giornata splendente e infuocata dell'ottavo mese, quello che chiudeva l'estate, lei arrivò nella casa. Wang Lung la vide arrivare da lontano. Era in una portantina chiusa che avanzava lungo gli stretti sentieri che costeggiavano i campi e la seguiva la figura di Cucù. Wang Lung ebbe un istante di paura e si disse: «Cosa sto portando nella mia casa?» E quasi senza sapere cosa stava facendo, entrò velocemente nella stanza dove aveva dormito per tanti anni con sua moglie e chiuse la porta. E là, nel buio della stanza, aspettò imbarazzato fin quando sentì la moglie dello zio che lo esortava ad alta voce a uscire perché c'era qualcuno alla porta. Poi, confuso, come se non avesse mai visto la ragazza, uscì lentamente col capo chino, sugli abiti fini e gli occhi che guardavano qua e là, mai però dritto davanti a sé. Ma Cucù lo salutò allegramente: «Beh, non sapevo che avremmo fatto questo genere di affari.» Poi andò alla portantina che gli uomini avevano posato a terra e sollevò la tendina e fece schioccare la lingua e disse: «Vieni, mio fiore di loto, questa è la tua casa e questo è il tuo signore». E Wang Lung soffriva vedendo grandi smorfie di riso sulle facce dei portatori e pensò: «Questa è gente che ciondola per le strade di città e sono persone indegne». E provò rabbia sentendo la propria faccia calda e rossa e quindi non parlò. Poi la tendina fu sollevata e prima di rendersene conto Wang Lung guardò e vide Loto seduta sul fondo scuro della portantina, truccata e fredda come un giglio. Dimenticò ogni cosa, persino la sua rabbia verso i tizi sogghignanti della città, tutto tranne il fatto che aveva comprato quella donna perché fosse sua e lei era venuta nella sua casa per sempre. E rimase rigido e tremante a osservarla mentre si alzava, aggraziata, come se un vento fosse passato sopra un fiore. Mentre lui guardava, incapace di distogliere gli occhi, lei prese la mano di Cucù e uscì, e a testa china e con le palpebre abbassate, prese a camminare, barcollando e ondeggiando sui suoi piccoli piedi e appoggiandosi a Cucù. Nel passare davanti a Wang Lung non gli parlò, ma sussurrò debolmente a Cucù: «Dov'è il mio appartamento?». Poi la moglie di suo zio la raggiunse dall'altro lato e così condussero la ragazza nella corte e nelle nuove stanze che Wang Lung aveva costruito per lei. E di tutta la casa nessuno la vide passare perché Wang Lung aveva mandato Ching e i lavoranti in un campo lontano per quella giornata. E Olan se n'era andata chissà dove, prendendo con sé i due bambini più piccoli, mentre i ragazzi erano a scuola e il vecchio dormiva contro il muro e non sentiva e non vedeva nulla. E quanto alla piccola scioccherella, non vedeva nessuno di quelli che andavano e venivano e non conosceva altre facce se non quella del padre e della madre. Ma quando Loto fu entrata, Cucù tirò le tende dietro di lei. Poi alla fine la moglie dello zio di Wang Lung uscì ridendo con una certa malizia e batté le mani come per liberarle da qualcosa che vi era rimasto attaccato. «Ah! Puzza di trucco e profumo quella», disse ancora ridendo, «puzza davvero come una donnaccia». E poi disse con una malizia ancora più grande: «Non è così giovane come sembra, caro nipote. Ti dirò anche che se non fosse stata vicina all'età in cui gli uomini smetteranno di guardarla, dubito che giada nelle orecchie, oro sulle dita e persino seta e raso l'avrebbero convinta a entrare nella casa di un contadino, sia pure benestante». E vedendo la rabbia sulla faccia di Wang Lung per quelle sue parole troppo schiette, aggiunse rapidamente: «Però è bella, non ho mai visto un'altra così bella, e sarà dolce come il riso degli 8 gioielli a un banchetto, dopo gli anni passati con la schiava dalle grandi ossa della casa dei Huang». Ma Wang Lung non rispose niente, poté solo muoversi qua e là per la casa e ascoltare senza riuscire a stare fermo. Alla fine prese coraggio e sollevò la tenda rossa ed entrò nella corte che aveva costruito per Lotto e poi nella stanza oscurata dove lei si trovava e là rimase accanto a lei per tutto il giorno fino alla notte. Per tutto quel tempo Lan non si era avvicinata alla casa. All'alba aveva preso una zappa dalla parete e aveva chiamato i bambini e preso un po' di cibo freddo avvolto in una foglia di cavolo e non era più tornata. Ma quando scese la sera, entrò silenziosa e sporca di terra, cupa per la stanchezza, seguita dai bambini zitti. Non disse niente a nessuno, ma andò in cucina e preparò il cibo e lo depose sul tavolo, come faceva sempre. Chiamò il vecchio e gli mise in mano le bacchette e diede da mangiare alla piccola scioccherella e poi mangiò qualcosa con i bambini. Poi, mentre questi dormivano e Wang Lung sedeva ancora sognante al tavolo, si lavò per andare a coricarsi e alla fine andò nella solita stanza e dormì sola nel letto. Wang Lung mangiò e beve allora il suo amore giorno e notte. Un giorno dopo l'altro entrò nella stanza dove Loto giaceva indolente sul letto e le sedeva accanto e osservava tutto quel che faceva lei. Lei non uscì mai nel calore delle prime giornate d'autunno, ma giaceva mentre Cucù bagnava il suo corpo sottile con acqua tiepida e sfregava olio sulla sua carne e profumo e olio sui capelli. Perché Loto si era incaponita che Cucù dovesse rimanere con lei come sua serva e la pagava così munificamente che la donna acconsentì volentieri a servire una anziché un gruppo intero, Lei e Loto, la sua padrona, vivevano separate dagli altri nella nuova corte che Guanglong aveva costruito. Per tutto il giorno la ragazza giaceva nella fresca oscurità della sua stanza, mangiucchiando dolciumi e frutta, indossando solo abiti di leggera seta estiva, una giacchetta aderente che le arrivava alla vita e ampi pantaloni sotto. E così Wang Lung la trovava quando andava da lei e mangiava e beveva il suo amore. Poi al tramonto lo mandava via con la sua graziosa insolenza e Cucù la lavava e profumava di nuovo e le metteva abiti puliti, soffice seta bianca sulla sua carne e seta color pesca all'esterno, i vestiti che Guanlung le aveva regalato. E ai piedi Cucù le metteva le scarpine ricamate, e allora la ragazza camminava nella corte e osservava la piccola vasca con i 5 pesci rossi, e Guanlung contemplava la meraviglia che era sua. Lei dondolava sui piedini e per Wang Lung non c'era niente al mondo che uguagliasse la bellezza dei suoi piedini appuntiti e delle sue mani sinuose e incapaci. E così mangiava e beveva il suo amore e banchettava da solo ed era contento. 21. Era impensabile che l'arrivo di Loto e della sua serva Cucù nella casa di Wang Lung potesse avvenire senza qualche genere di trambusto e discordia, perché con più di una donna sotto lo stesso tetto non può esserci pace, ma Wang Lung non l'aveva previsto. E sebbene gli sguardi tetri di Olan e la mordacchia di Cucù gli dicessero che qualcosa non andava, lui non vi badò e non si curò di nessuno fin tanto che il suo desiderio continuava a dominarlo con forza. Eppure, mentre il giorno diventava notte e la notte si trasformava in alba, Wang Lung vide che il sole sorgeva davvero al mattino, e Loto era lì, e la luna sorgeva quando era il suo momento, e lei era lì, pronta a lasciarsi afferrare dalla sua mano quando voleva. E la sua sete di amore si era un po' smorzata, e lui vedeva cose che non aveva visto prima. Innanzitutto vide subito che c'erano problemi fra Olan e Cucù. Fu per lui una sorpresa, perché si era aspettato che Olan odiasse Loto. Aveva sentito dire queste cose molte volte, e certe donne si impiccavano addirittura con una corda a una trave quando un uomo prendeva in casa una seconda donna. Altre sgridavano il marito e gli rendevano la vita impossibile, e lui era contento che Olan fosse una donna silenziosa, perché almeno non poteva inventarsi parole contro di lui. Ma non aveva previsto che, se da un lato non avrebbe detto niente di Loto, la sua rabbia si sarebbe sfogata contro Cucù. Wang Lung in realtà aveva pensato solo a Loto e a quando lei lo aveva supplicato: «Lasciami avere questa donna come mia serva. Vedi che sono completamente sola al mondo, perché mio padre e mia madre sono morti quando non sapevo ancora parlare, e mio zio mi ha venduta non appena sono diventata graziosa per farmi fare la vita che ho fatto, e non ho nessuno». Disse tutto ciò con quelle sue lacrime, sempre copiose, pronte e luccicanti, agli angoli dei suoi begli occhi, e quando lei lo guardava a quel modo, Wang Lung non avrebbe saputo rifiutarle niente. E poi era vero che la ragazza non aveva nessuno che la servisse, ed era vero che sarebbe stata da sola nella sua casa, perché era chiaro e prevedibile che Olan non avrebbe servito la seconda, non le avrebbe parlato o fatto caso nemmeno alla sua presenza in casa. Quindi c'era solo lo zio di Loto, e Wang Lung non sopportava proprio l'idea di averlo lì a sbirciare e curiosare e raccogliere le chiacchiere di Loto su di lui. Cucù a quel punto andava bene e Wang Lung sapeva che nessun'altra donna sarebbe venuta. Ma non appena vide Cucù, Olan apparve presa da una collera così profonda e malevola come Wang Lung non le aveva mai visto, e non sapeva che potesse esserci in lei. Cucù era pronta anche a fare amicizia, perché veniva pagata da Wang Lung, sebbene non dimenticasse che nella grande casa lei era stata nella stanza da letto del signore, e Olan era stata una schiava di cucina fra le tante. E non di meno, vedendola per la prima volta, le si rivolse abbastanza cordialmente: «Bene, mia vecchia amica, eccoci di nuovo nella stessa casa, e tu sei la padrona e prima moglie mia madre. E come sono cambiate le cose!» Olan la guardò, e quando capì chi e cos'era, non rispose nulla, ma posò il vaso d'acqua che stava portando e andò nella stanza centrale dove Wang Lung trascorreva i suoi intervalli dall'amore, e gli chiese apertamente: «Cosa fa questa schiava nella nostra casa?» Wang Lung guardò a est e a ovest. Avrebbe voluto parlare chiaro con la voce burbera del padrone. Beh, è la mia casa. E se io dico che una persona può entrare, allora entra. E chi sei tu per chiedere? Ma non poteva farlo perché si vergognava un po' quando Lan era davanti a lui, e la vergogna lo faceva arrabbiare perché a pensarci non c'era nessun motivo di provare vergogna. Non aveva fatto niente più di quello che poteva fare un uomo che avesse argento in abbondanza. Eppure non riusciva a parlare chiaramente e guardava solo a est e a ovest, fingendo di non trovare la pipa nella veste e frugava nella cintura. Ma Olan restava salda sui suoi grossi piedi e aspettava. E siccome lui non diceva niente, ripeté con le stesse chiare parole: «Cosa fa questa schiava nella nostra casa?» E vedendo che lei voleva una risposta, Wang Lung le chiese debolmente: «E a te cosa importa?» E Olan disse: «Ho sopportato le sue occhiate arroganti per tutta la mia giovinezza nella grande casa, quando non faceva che correre in cucina 1.000 volte al giorno e gridare dell'altro tè per il signore, cibo per il signore. Ed era sempre o troppo caldo o troppo freddo, o era cucinato male, e io ero troppo brutta e troppo lenta e troppo questo e quello». Ma ancora Wang Lung non rispose perché non sapeva cosa dire. Allora Olan attese, e siccome lui non parlava, le lacrime calde e rade si raccolsero lentamente nei suoi occhi e lei li strinse per trattenerli. Alla fine prese un angolo del grembiule azzurro e asciugandosi disse: «È molto doloroso vedere questo nella mia casa e non ho la casa di una madre dove poter tornare». E poiché Wang Lung continuava a stare zitto e non rispondeva nulla, ma si sedette per accendersi la pipa, sempre senza parlare, lei gli lanciò uno sguardo misero e triste, con i suoi occhi stranamente spenti, simili agli occhi di una bestia che non sa parlare, e si allontanò piano, cercando la porta con le dita per via delle lacrime che la accecavano. Wang Lung la osservò allontanarsi e fu contento di restare solo, ma provava ancora vergogna e parlava con se stesso, mormorando ad alta voce le parole, irrequieto, come se litigasse con qualcuno. «Anche gli altri uomini sono così, e io sono stato abbastanza buono con lei. Ci sono uomini peggiori di me». E alla fine si disse che Olan doveva sopportarlo. Ma Olan non aveva finito e proseguì in silenzio per la sua strada. Al mattino scaldava l'acqua e la dava al vecchio, e se Wang Lung non era nella corte interna gli dava il tè, ma quando Cucù andava a prendere acqua calda per la sua padrona il calderone era vuoto e tutto il suo sonoro incalzare con domande non suscitava la minima reazione in Olan. A quel punto non le restava che bollire lei l'acqua per la sua padrona, se la voleva, ma poi era il momento di preparare la pappa del mattino e nel calderone non c'era spazio per altra acqua, e Olan andava avanti imperturbabile a cucinare, senza rispondere alle grida di Cucù. «E la mia delicata signora deve soffrire la sete e boccheggiare nel suo letto in attesa di un sorso d'acqua al mattino?» Ma Olan non la sentiva, infilava soltanto altra erba e paglia nelle viscere della stufa, distribuendola con attenzione e parsimonia come ai vecchi tempi, quando anche una foglia era preziosa per il fuoco che accendeva sotto il cibo. Allora Cucù andò da Wang Lung a lamentarsi ad alta voce, e lui si arrabbiò sentendo che simili cose venivano inflitte al suo amore, e andò da Olan per rimproverarla e le gridò: «Non puoi aggiungere un mestolo di acqua al calderone di mattina?» Ma lei rispose con un astio sul viso che era più profondo che mai: «Non sono la schiava delle schiave, in questa casa perlomeno». Lui non ci vide più per la rabbia e afferrò la spalla di Olan e la scosse con forza e disse: «Smettila di essere così stupida, non è per la serva, ma per la padrona». E lei sopportò la sua violenza e lo guardò e disse semplicemente: «E a quella hai dato le mie due perle?» Allora la mano di lui cadde e rimase senza parole. La sua rabbia era scomparsa e se ne andò pieno di vergogna e disse a Cucù: «Costruiremo un'altra stufa e farò un'altra cucina. La prima moglie non sa nulla delle squisitezze che servono all'altra per il suo corpo simile a un fiore e che assapori anche tu. Là cucinerai quello che vorrai».